lei che servo ignora. Or mi spretta ora madora a un pensiero sempre volante. Or mi spretta ora madora a un pensiero sempre volante. Oh che umore stravagante, oh che umore stravagante, oh che umore. Io sono il suo cuore e che a ogni altro ardore cede il mio fuoco. E poi di lì a poco parlando con me mi dice che a te quel divenuto ancor non hai il suo amante. Parlando con me mi dice che a te quel divenuto mi spreta ora ma ora a un pensiero sempre volare.